Hello, my friends. I have missed you very, very much. Ciao, amici miei, mi siete mancati tantissimo. And I wish I was with you in person right now. E vorrei tanto essere lì con voi in persona. I'm sitting in my house in Watford, just outside London. E invece sono a casa in Watford, just una città fuori Londra. And I've put the camera and sat in front of my bookcase so that as you look at me with all my books behind, you think I'm an intellectual and you think I'm very clever with all the books that I have read. E quindi ho posizionato la camera sulla mia scrivania e di fronte alla libreria, così che possiate vedere tutti i libri e possiate avere l'idea di quanto sia intelligente e acculturato, giusto perché ho certamente letto tutti i libri alle mie spalle. Yes, I hope you're impressed. Spero veramente che siate impressionati da questo. The truth is, however, that we are in the middle in England of a really big lockdown. We're not allowed to leave our homes. All the shops except the essential ones that sell food are closed. We have been instructed by our government and by law that we stay at home unless it's essential that we go out. No one can come into our home. We can't go to anyone else. It's really tough. La verità è che al momento noi stiamo in lockdown e quindi non c'è permesso di uscire. Tutti i negozi sono chiusi, eccetto per quelli di prima necessità. E siamo stati, ci è stata data la restrizione, ecco, di rimanere a casa e quindi è difficile, è una situazione abbastanza difficile quella che stiamo vivendo. And so that's where we are. And this last year, 2020, has been a very tough year for nearly all of us. We saw on the news in England about what you've been going through in Italy and the lives lost there with you as well as with us. It's been a bad year. E quindi questo è quello che stiamo vivendo. L'anno appena passato è stato un anno estremamente difficile. Abbiamo sentito ai telegiornali che anche per voi è stato un anno molto duro, abbiamo sentito delle vite che insomma sono state perse, delle persone morte, insomma è stato un anno davvero difficile. But we are now in 2021. Ma adesso siamo nel 2021. And even though it's just a date, actually sometimes these dates can be very good times for us to look back and also to look forward. E anche se si tratta solo di una data, in realtà è proprio sono proprio le date che rappresentano il momento giusto per guardarci indietro, ma anche per guardare in avanti. And in England, we make New Year's resolutions at the turn of the year, just as you do. E in Inghilterra, proprio come fate voi lì in Italia, alla fine dell'anno, in preparazione per il nuovo, facciamo l'elenco dei buoni propositi. And I'm not sure what I think about New Year's resolutions. E in realtà non so davvero qual è la mia posizione, la mia idea riguardo a questi buoni propositi. Because my experience is usually the resolutions I make on the 1st of January, I've forgotten completely by the 10th of January. Perché almeno per quella che è la mia esperienza, quello che succede è che facciamo questi buoni propositi il 1 di gennaio e poi il 10 gennaio già ce li siamo dimenticati. Although I need to tell you, there was one time that was quite different. When I'd just become a Christian, I was about 17 years old, and on New Year's Eve, I made a resolution. Ma devo dirvi che In realtà c'è stata una volta, ero credente da poco e avevo circa 17 anni, e il 1° di gennaio ho fatto questo elenco dei buoni propositi. And my resolution was that from midnight at the beginning of New Year's Day I would not sin again. E il mio buon proposito era che dall'inizio dell'anno in poi io non avrei più commesso alcun peccato. And I need to tell you, in all humility, e devo I dirvi, managed it. In tutta umiltà, I did not sin. Che in realtà non ho peccato. Midnight on New Year's Eve, just before midnight, I sinned a lot to get it out of my system. Quello che è successo è che prima della mezzanotte mi sono dato da fare con il peccare, così per fare tutto. And then from midnight I said, sin no more. E poi dalla mezzanotte ho detto, basta con il peccato, ho chiuso per sempre. And I didn't sin. E veramente ci sono riuscito, non ho peccato. For a whole 8 hours. Per tutte le successive 8 ore. And then I woke up. E poi mi sono svegliato. And then the problem started. E lì è incominciato il problema. It was easy to sin when I was, it was easy not to sin when I was asleep. Perché è stato molto facile non peccare mentre dormivo. My problem is in the daylight hours. Ma il problema è incominciato al sorgere del sole, quando mi sono svegliato. And of course I've realized what we have all realized, we can't change by gritting our teeth and trying harder. E quello di cui mi sono reso conto, e certamente lo sapete anche voi, è che non è possibile rendere la nostra vita migliore solo con le nostre forze, solo con i nostri buoni propositi. Christianity is not a self-improvement program. Perché l'essere cristiani non vuol dire seguire un programma di miglioramento personale. It's about receiving his life, his goodness, his peace, his love, his patience. Ma essere cristiani vuol dire ricevere la sua vita, la sua bontà, la sua pazienza, la sua grazia. And like Jesus said in John 15, I am the vine, you are the branches, and it means that we are in him, that we are, the branches are the vine. Ed è proprio come quello che Gesù dice in Giovanni 15, io sono la vite, voi siete i tralci, e voi siete i tralci perché vivete in me. Essere tralci ed essere vite sono due cose unite e connesse. And so it's remaining in him, resting in him, so that the sap of his new life would come through us. E quindi il segreto è stare in lui, dimorare in lui, riposare in lui, così che la sua vita possa sgorgare dalla nostra. So I'm not completely sure that saying New Year's resolutions is the best way. Quindi non sono proprio certo del fatto che seguire questi buoni propositi sia il modo migliore per vivere una vita migliore. Maybe we could call them New Year's hopes. Forse li possiamo chiamare le speranze del nuovo anno. These are my hopes for the new year, and it's a strong hope because it's like the hope in Christ. We hope in him. E dire queste sono le speranze per il mio nuovo anno, quando siamo convinti del fatto che la nostra speranza è in Gesù, la nostra speranza è in lui. Or maybe we call them New Year's aims, or even New Year's prayers. What are our prayers for the coming year? Oppure possiamo chiamarle possiamo chiamarli obiettivi del nuovo anno o addirittura preghiere per il nuovo anno. Ecco, queste sono le mie preghiere per l'anno che mi sta dinanzi. Whatever we call it, it's good to look ahead and to have hope and aims and prayers and resolutions. Possiamo chiamarle come vogliamo ed è una cosa buona avere degli obiettivi, dei propositi, delle speranze, delle preghiere per quello che ci sta dinanzi, per quello che ci aspetta. So I want to tell you what mine are for 2021. E quindi voglio condividere con voi quelle che sono le mie speranze, i miei propositi per il nuovo anno, per il 2021. It's very simple. It's to know him and to make him known. Ed è molto semplice. Il mio proposito è di conoscere Dio e di farlo conoscere. The first half, to know him. Ora, la prima parte, conoscerlo. We've noticed, I've noticed in this last year of 2020 that those who have done the best in our church have been those who have known Jesus the most, the deepest. Ho notato in quest'ultimo anno, nel 2020, che le persone che hanno affrontato il tutto nella maniera migliore, nella maniera più forte, erano proprio quelle persone che conoscevano Dio profondamente. And those who have struggled the most are those who didn't really have a strong personal relationship with him. Al contrario, le persone che hanno avuto più difficoltà erano proprio quelle che non avevano una relazione profonda e personale con Gesù. And I want in this year for me and for my church, which I love, that we would grow to know him better. E quello che io voglio per me stesso e per la mia chiesa è che nell'anno che ci sta dinanzi possiamo conoscere Dio sempre e sempre di più. Why to know him better? Perché? Perché conoscerlo di più? Because to know him is to love him. Perché conoscerlo vuol dire amarlo. When we know him, we know deep in our hearts as we grow to know him that he is faithful even when we are faithless. Quando lo conosciamo, allora sappiamo nella profondità del nostro cuore che lui rimane fedele anche quando noi non lo siamo. That he is meek and gentle of heart. Che lui è umile e mansueto di cuore. That he is kind and compassionate. Che lui è pieno di compassione e lui è buono. And that he is at the same time powerful and holy. Ma che allo stesso tempo lui è potente ed è santo. And this isn't knowing him like you get to know work for an exam, the right answers. It's knowing him like you know a person. E non si tratta di conoscere Dio come quando magari studi tutte le informazioni per prepararti per un esame, ma it's a different kind. Un conoscerlo come persona. It's a different kind of knowing. È una maniera diversa di conoscere. And I think if we spend time getting to know him, I've realized in this last year, the Lord told me off in the middle of the year. E quello che è successo a metà dell'anno scorso è che proprio il Signore mi ha ripreso, mi ha corretto. I said to him in prayer, Lord, I'm a bit low, I'm struggling, I'm got a bit of anxiety. Pregandogli ho detto, sai Signore, io mi sento giù, e sono in difficoltà, e non sta andando bene. And he said to me, how much time are you spending watching all the news programs on TV. E lui mi ha risposto domandandomi quanto tempo stai trascorrendo davanti alla televisione a guardare i telegiornali e le notizie di ciò che sta succedendo. How much time are you spending on Twitter? Quanto tempo trascorri su Twitter? On Instagram, on Facebook. Oppure su Instagram o su Facebook. And I said, Lord, you know the answer. E gli ho quite detto, a Signore, lot of time. Tu la sai la risposta. Sto trascorrendo parecchio tempo. And then he said, and how much time are you spending in my book? E poi ha continuato domandandomi, e invece quanto tempo stai trascorrendo nel leggere la Bibbia, la mia parola? And I said to him, Lord, I think I know where this conversation is heading. E gli ho risposto, ok, Signore, ho capito dove vuoi arrivare. And he said to me, you're right. This is where it's heading. E lui mi ha detto, hai ragione, hai capito benissimo. How about trying to spend a bit more time in my book and hearing the good news and meditating on the good news and soaking yourself in my faithfulness and truth and less time on all the things around you that are terrible and the comments that are bad and everything and see how things change. E mi ha detto, perché non provi a trascorrere più tempo nel leggere la mia parola, nel farla scendere in profondità, nell'assorbire tutte quelle verità, piuttosto che invece alimentarti di tutte le notizie, di tutti i commenti che si ascoltano o si leggono sui giornali. And you know what? It works. E sapete cosa è successo? Funziona, funziona davvero. I had been filling my head with negative things and not filling my head with the truth of his promises and of who he is. Quello che stavo facendo era riempire la mia testa di tutte le cose che stavano succedendo piuttosto che riempire la mia mente di quelle che sono le sue verità e le sue promesse. And I just want to read you just a couple of verses from two psalms that have meant a lot to me. E voglio leggervi giusto un paio di versi. E li leggiamo da due salmi e questi versi mi hanno parlato molto. And just before we read from Psalm 62, verse 1, I just want to say, I have found it so beneficial to read the Bible slowly rather than quickly. You know, I used to read it like it was a race. You know, I've got to read it all. I've got to read it all. It's good to read the whole Bible. But an example from food, and you know I'm the expert on food. Giusto prima di leggere i primi versetti del Salmo 62, voglio dirvi questo. Io ho imparato e ho visto l'importanza di leggere la Bibbia lentamente piuttosto che velocemente tutte insieme. Io leggevo la Bibbia quasi come fosse una corsa. E invece non è proprio così, è un po' come funziona con il cibo, e voi lo sapete che io sono esperto di cibo. If I eat, I've discovered, if I try and eat lots of food all at once, really fast, I get indigestion. Lo sapete cosa succede? Se cerco di mangiare tanto cibo tutto insieme, quello che succede è che avrò un'indigestione. And the truth is, I can't even remember what it tasted like. I ate it so quick, I didn't taste it. E succede che quando mangio così, poi alla fine non posso neanche ricordarmi dei sapori, del gusto, perché ho mangiato troppo in fretta, troppo velocemente. But if I eat it slowly, and I let it taste in my mouth, and I think about it, Ma se, I enjoy it so much more. Se invece mangio lentamente e mi do il tempo di gustare, di assaporare, è tutta un'altra cosa. Eat his word slowly. Ecco, mangia la sua parola lentamente. Meditate on it. Meditala. Taste it. Gustala, assaporala. So, here's a few verses that I think it's really good. You could spend a month in these. Quindi, easily. Quello che andremo a leggere sono un paio di versetti e credo che su questi versetti sia possibile meditare per mesi. Psalm 62, the first verse. Truly my soul finds rest in God. My salvation comes from him. Truly he is my rock and my salvation. He is my fortress. I shall never be shaken. Salmo 62, il verso 1 e 2, dice così. Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Da lui proviene la mia salvezza. Solo lui è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Io non potrò vacillare. And you know, in the middle of COVID and this pandemic, to taste, to eat slowly the words, truly my soul finds rest in God. My salvation comes from him. E sapete, proprio nel bel mezzo del COVID, di questa pandemia, è così bello poter assaporare queste parole. Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Da lui proviene la mia salvezza. Truly he is my rock and my salvation. He is my fortress. I shall never be shaken. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Io non potrò vacillare. And then later on in the psalm, he says to himself, he says, yes, my soul, find rest in God. My hope comes from him. E più più in là nel verso, ecco che Davide parla a se stesso e dice: sì, l'anima mia trova riposo in Dio soltanto, poiché da lui proviene la mia speranza. So first of all, he's declaring the truth. You know, my hope, you are my rock. And then he says to himself, hey, soul, hey, Mike, find your rest in God. Quindi vedete come, prima di tutto, lui dichiara la verità e dice, tu sei la mia rocca, tu sei la mia salvezza. E poi si rivolge a se stesso, si rivolge alla sua anima, dice, ehi, Mike, trova riposo in lui. Yeah, and then right at the end of Psalm 62, he says this, one thing God has spoken, two things have I heard. You see, God spoke once, but he heard two things from that one thing he spoke. And because they belong together, one, power belongs to you, God, and two, with you, Lord, is unfailing love. E alla fine del Salmo, lui dice questo, dice, Dio ha parlato una volta, due volte ho udito questo. È interessante come Dio parla una volta e da questo suo dire una volta Davide ascolta due cose che sono strettamente connesse. La prima è che il potere appartiene a Dio. E poi con la seconda, a te, Signore, appartiene la misericordia. Let that truth marinate in your heart, in your mind, in your soul. E che questa verità possa scendere nelle profondità, ecco, del tuo cuore, della tua mente, della tua anima. Assaporala, meditala. And then just very quickly, Psalm 46, verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. He is an ever-present help in trouble. What a verse for this last year. He's ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth give way. E poi c'è molto velocemente il verso nel Salmo 46, il verso 1, che dice: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Che verso, che verità da assaporare nel bel mezzo dell'anno che abbiamo trascorso. Dio è un aiuto sempre pronto nelle difficoltà ed è per questo, continua il Salmo, noi non temiamo. Se la terra è sconvolta, anche se i monti si smuovono in mezzo al mare, noi non temiamo. That's it. That's how. Spend time with him. Pray, worship, read his word. Soak in it. Not as a religious duty, but as a secret joy. And then you will find over a period, you will know him better, to know him. Quindi questo... Questo è il segreto, questo è importante. Stare alla sua presenza, pregare, adorare, assorbire e meditare la sua parola. E facendo questo, poi con il tempo vedremo che è proprio questo il modo di conoscere il nostro Dio sempre più profondamente. And I just have a few minutes left. Because I spent too long on the first bit, but here's the second bit in just a few moments to make him known. E abbiamo solo pochi minuti, ho voluto proprio sottolineare, ecco, il primo punto, però adesso parliamo della seconda parte, fare conoscere Dio agli altri. And you know what? We have no hope of making him known if we don't know him ourselves. E sapete, noi non possiamo farlo conoscere se non lo conosciamo noi per prima. How do we make him known? Ok, come? Come facciamo a farlo conoscere? It's not complicated. Non è assolutamente complesso. It's very simple. È molto semplice. And I've been to too many conferences on evangelism where I've left thinking, oh my goodness, I could never do that. E mi è capitato proprio di andare ad un sacco di conferenze sull'evangelizzazione e uscirmene da queste conferenze pensando, mamma mia, ma non ce la posso fare. So here is, in a couple of minutes, the Pilavachi Guide to Evangelism. Quindi ecco per voi, in giusto un paio di minuti, la guida di Pilavachi per far conoscere Gesù agli altri. First of all, be normal. Prima cosa, sii normale. I know that sounds strange coming from me, who is the least normal person I've ever met. So che sembra strano detto da me, perché non è che sia una persona così tanto normale. But just don't try and be so super spiritual that you're weird. Però just be normal, be yourself. Non cercare di essere così super spirituale che alla fine sembri poi strano. Sii normale, sii te stesso. Be human. Sii umano. Then secondly, be kind. Secondo, sii gentile. Be nice to people. Sii gentile con le persone. Thirdly, be generous. Numero tre, sii generoso. Be generous with your time. Sii generoso con il tuo tempo. Be generous with your caring, with your encouragement, with your money, with your gifts. Be generous. Sii generoso nel prenderti cura delle persone, con il tuo tempo, con il tuo denaro. Sii generoso con chi ti sta attorno. Because God is generous. Perché Dio è generoso. And when we are like him, people start having a desire for him because they see him a little bit in us and then they want to know what we know. Perché quando noi gli assomigliamo, le persone incominciano a desiderare di conoscerlo di più, perché vedono un po' di lui in noi. I finish with this. This year has been, in many ways, this last year, a very tough year, quite tough for me as well as everyone else. Finisco con questo. Quest'anno è stato un anno veramente difficile, particolarmente difficile per me, ma come per tutti quanti noi. But there's been one area in which this year has been wonderful, and I would not have missed it for anything. Ma c'è un'area in particolare che quest'anno è stata invece meravigliosa e non la cambierei per nulla al mondo. Being stuck in my house in lockdown, I was starting to go crazy. Essendo costretto a casa nel lockdown, per un certo periodo mi ha fatto un po' uscire matto, mi ha fatto stare male. And then I thought, what could I do for my neighbors that I would enjoy? E poi ho pensato, cosa posso fare? Cosa potrei fare per i miei vicini di casa? Qualcosa che mi piacerebbe fare per loro. I thought, I could cook them meals. E ho pensato, potrei cucinare dei pasti per loro. And my first reaction was, no, don't do that, they'll be embarrassed. La mia prima reazione a questo pensiero è stato no, non lo fare perché questo li metterebbe in imbarazzo. They won't like your food. E magari il cibo che li prepari non gli piacerà. And you know what I realized? I wasn't worried that they would be embarrassed. I was going to be embarrassed. Mi sono reso conto che non ero tanto preoccupato per il loro imbarazzo quanto forse sarei stato imbarazzato io. So I started cooking lots of meals. E quindi ho deciso di cucinare. L'ho fatto, ho cucinato tanti pasti. And I would take them to their houses and I would knock on the door, I would put the meal down on the floor, I would step back, they would open the door, I'd say, hello. This is from me to you. Bye. Quindi quello che ho fatto è semplicemente ho preparato questo pasto, sono andato dai miei vicini, ho bussato, ho appoggiato quello che avevo preparato per terra, mi sono fatto indietro, loro aprivano e io semplicemente ho detto ciao, questo è quello che io ho preparato per te. Ciao. I've been doing it for the last 8-9 months. E ho fatto questo per gli ultimi 8-9 mesi. I'm nearly bankrupt. E sono al verde praticamente. But do you know, not one of them said no. Ma sapete, nessuno dei miei vicini ha rifiutato quello che gli stavo offrendo. Now, in my street, they send me messages asking me if I would pray for them or their family. Adesso quello che sta succedendo è che tutti i miei vicini mi chiedono preghiera per i loro bisogni, ma anche per quelli della loro famiglia o degli amici. They knock on my door and they say, "Is there anything you need?" Loro vengono, bussano alla mia porta chiedendomi se ho bisogno di qualcosa. They stop me in the street and say hello. Mi fermano per strada e mi salutano. They've all become my friends. Loro sono diventati miei amici. I mean, how can you not like someone who cooks you food? E insomma, com'è possibile che non ti piaccia qualcuno che ti prepara da mangiare? Do something like that. You'll be amazed. Fai qualcosa del genere e tu ne rimarrai così meravigliato. Make him known in your life. Fai conoscere Gesù attraverso la tua vita. To know him and to make him known. Ricordati, conoscerlo e farlo conoscere. A great motto for this year. E questo è un bellissimo motto per quest'anno. And I absolutely finish with this. E davvero con questo concludo. You need to give food to strangers. Tu devi dare del cibo a persone che non conosci. For example, per esempio, if when this COVID crisis is over, quando e se questo COVID sarà tutto finito, sarà tutto terminato, and a Greek person from England comes to visit you, e una persona greca dall'Inghilterra viene e ti visita, chocolates, la cioccolata, biscuits, biscotti, mozzarella, e le mozzarelle, pasta, pasta, pizza, la pizza. That may be a prophetic statement from me to you as a church. Questo probabilmente è una profezia da parte mia per la chiesa. Seriously, folks, I love you very much. I miss you. I can't wait when this is over. Whether Pastor Mirko invites me or not, I'm coming anyway. And we pray for you. We do love you. And go well. Go well. Go into 2000 and this year, into the rest of 2021, choosing to pursue him, to know him, and to make him known. Sì. E amici, davvero, vi voglio un gran bene. Mi mancate tanto. E quando questa pandemia finirà, che il pastore Mirko mi inviti o meno, io voglio venire a visitarvi. E vi benedico e vi incoraggio ad affrontare, ad entrare in questo nuovo anno con fede e aspettandovi di vedere l'opera di Dio. So, lots of love from me. God bless you. I'll say goodbye and see you soon. Quindi vi voglio bene, Dio vi benedica e ci vediamo presto. Okay.